Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo con gli occhi di tutti gli animali, umani e no. Questa puntata Restiamo Animali sarà trasmessa da una nuova emittente, Radio Prato, che ci manderà in onda tutti i venerdì mattina alle 11.15. Radio Prato si aggiunge quindi a Radio Città del Capo di Bologna, Radio Tandem di Bolzano, Radio Fragola di Trieste e a Radio Lupo Solitario sul web. Ai nuovi ascoltatori di Radio Prato il nostro saluto di benvenuto. In questa puntata parleremo di api, di plastica, cani e gatti e lupi. Parleremo anche di case di moda. La musica scelta da Giuseppe Coco e il piatto non violento del giorno di Gabriele Palloni completeranno il quadro. Il 20 maggio scorso si è celebrata la Giornata Mondiale delle Api, proclamata nel 2018 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite su iniziativa della Repubblica Slovena. La data è stata scelta perché coincide con il giorno in cui nacque Anton Janša, che nel XVIII secolo fu un pioniere delle tecniche di apicoltura moderne nel suo paese, appunto la Slovenia. La giornata è stata l'occasione per lanciare un nuovo segnale di allarme sulle difficoltà dell'apicoltura. In difficoltà in queste settimane per il ritardo delle fioriture primaverili e più in generale per gli effetti dei mutamenti degli ecosistemi. Le api e gli insetti in generale sono sottoposti in questa fase storica a un'enorme minaccia dovuta alla progressiva scomparsa dei loro habitat naturali e all'uso di pesticidi e altri veleni in agricoltura, sostanze letali per le api, efficientissime macchine da lavoro, ma tanto forti quanto delicate. Il quadro d'insieme è preoccupante, visto il ruolo fondamentale svolto dalle api e dagli altri insetti negli equilibri degli ecosistemi. Perciò l'attenzione attorno alle api è molto alta e nei giorni scorsi la Commissione europea ha registrato una iniziativa della cittadinanza intitolata Salviamo le api, protezione della biodiversità e miglioramento degli habitat degli insetti in Europa. L'obiettivo di questa iniziativa popolare è definire obiettivi vincolanti per fare della promozione della biodiversità un obiettivo di fondo della politica agricola comune. Per sostenere questa iniziativa dei cittadini europei ci sarà un anno di tempo per la raccolta di almeno 1 milione di firme in 7 stati. Dopodiché la Commissione entro 3 mesi dovrà decidere se dare seguito alla richiesta. Di solito quando si parla di api si pensa all'apicoltura e la stessa nascita della giornata mondiale del 20 maggio, come abbiamo detto, trova le sue radici in questa pratica. A noi però piace pensare alle api libere, che quasi mai vengono prese in considerazione. Anziché di apicoltura, vogliamo quindi parlare di apicultura, con la U. Ne sapremo di più grazie a questa intervista a un apicultore, sempre con la U. Quindi a Franco chiedo di spiegarmi, di spiegare soprattutto a chi ci ascolta, in che cosa consiste la violenza umana nei confronti delle api, perché sfugge, si pensa che mangiare miele non significhi fare del male degli animali. Una volta l'apicoltura come la conosciamo adesso non esisteva, quindi l'uomo era un raccoglitore di miele, quindi cercava dove erano le cavità nella roccia, negli alberi, e dove queste cavità avevano costruito il loro nido le api, e prelevava i favi, quindi prelevava il miele ma anche le larve, schiacciava tutto e si mangiava fuori tutto, spesso affumicandole o soffocandole con il fumo, quindi le uccideva. Uccidevano una famiglia all'anno e magari ne rimanevano altre 50.000. Il problema è che adesso sciami selvatici non esistono, perché l'habitat non è più quello di una volta, quindi l'uomo ha razionalizzato la gestione delle api allevandole, creando delle cassette di legno in cui si forma il loro nido e mettendo sopra questo delle altre cassette, diciamo, in cui depositano il miele che producono in eccesso. Il problema qual è? Che poi lo sfruttamento ha portato l'apicoltore a intuire che le api potevano anche adattarsi a mangiare acqua e zucchero, che non va bene per loro. Siccome i telaini in cui le api si sviluppano hanno una certa dimensione e le cellettine in cui le api crescono, in cui nascono e si sviluppano, erano in media 4,8-4,9 mm, ha detto se l'ape piccola porta tot nettare che poi trasforma in miele, se io faccio delle cellettine con le più grandi, l'ape cresce più grossa, porta a casa bottina di più, quindi porta a casa più nettare. Non ha fatto il calcolo con la matematica e la geometria, cioè se io in un foglio ho le celle più grandi ne avrò di meno, quindi avrò un numero inferiore di api. Quando negli anni 80 ha importato gli sciami dall'Asia di ape cerana e con gli sciami ha portato anche la varroa, questo acaro che va a colpire le larve delle api, nel frattempo aveva già fatto la cella più grande da 5 mm 2, 5,3, 5,4. La cella grande, l'acaro depone più uova. Si schiude l'uovo prima che sfarfalli la nuova ape. Queste uova del parassita, possono essere 3, 4, 5 larve, vanno a parassitare, a succhiare l'emolinfa dell'ape che muore o cresce deformata, con l'ali deformate, eccetera. Tutto questo comunque indebolisce il DNA dell'ape. Che cosa succede? Che la varroa è un organismo molto semplice, si adatta e sopravvive, l'ape diventa sempre più debole. Quindi invece di sviluppare delle api che resistano di più a questo parassito che gli ha portato l'uomo, ha sviluppato acari sempre più resistenti ai trattamenti e api sempre più deboli. Quindi adesso c'è un gruppo che oltre a prendersene cura delle api, sta riportando le api alle celle originali, 4,9 mm. In questo modo si sviluppa il 70% di varroa in meno e le api riescono senza nessun trattamento a tenersela sotto controllo, come hanno fatto da 30 milioni di anni. Ma che cosa succede alle api quando l'uomo va a prendergli il miele? Tutto quello che si prende, che si potrebbe prendere, potrebbe derivare dal mondo delle api, crea loro danno. È vero con l'apicoltura tradizionale. Cosa succede? L'ape, quando cominciano le grosse fioriture, fanno prestissimo, in due giorni riempiono di 10 kg di miele la casetta. Quando è pieno, hanno due possibilità: o allargano la casetta, che non possono fare, o sciamano. Il problema qual è? Che l'uomo ha capito che se tira e stressa le api sono portate a produrre sempre di più, però così da una vita media di 2,5 mesi gliela riduce a 20 giorni, si ammalano molto di più, portano a casa molto più nettare che trasformano in miele, tu gli togli il miele, gli dai acqua e zucchero e loro vanno avanti così. Fare l'apicoltura invece vuol dire modificare le arnie, quindi fare in modo che i telaini corrano su un binario invece che dentro delle guide fisse che rischiano di schiacciare le api. Non usi il fumo, li apri lentamente, li chiudi lentamente evitando che rimangano su bordo e schiacciarle. È un altro modo di lavorare, insomma. E se dovesse rimanere qualche chilo di miele a fine anno, puoi pensare di prenderlo. In parte usarlo, ma noi per esempio quest'anno stiamo dando, l'anno scorso non ne hanno fatto, quello che hanno fatto in più 2 anni fa. E adesso glielo stiamo ridando perché non ne hanno, insomma, le fioriture sono state molto scarse e noi siamo a 1000 metri, per cui è ancora più difficile la gestione. chocolate Japan. Wherever you go, wherever you land, say what this means to me. I'll do what I can. Impossible Germany, unlikely Japan. Listening, oh, I know you're not listening. La ricetta di questa settimana di Gabriele Palloni nel suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile è dedicata inevitabilmente alle api. Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi prende ispirazione dalle api. Miele vegan, penserete subito, e invece no. Troppo facile, e poi mi sa che l'ho già data. Che ne dite di passare da un fiore all'altro per creare un originale dessert? Ecco allora gli ingredienti per 4 persone della crema di fiori. 100 ml di infuso di sambuco, 100 ml di infuso di rose e 100 ml di infuso di lavanda. 250 g di zucchero di canna, 340 ml di latte vegetale, 100 g di farina tipo 0, 50 ml di olio di semi di girasole, 15 g di amido di mais, 15 g di fecola di patate, 10 g di farina di ceci, 10 g di farina di mandorle, 5 g di cacao amaro in polvere, un cucchiaino di acqua di cottura di barbe rosse, una foglia di cavolo cappuccio rosso, un pizzico di curcuma, un pizzico di sale e 5 g di crema or tartaro o lievito per dolci. In un pentolino unite l'infuso di sambuco e 50 g di zucchero di canna e fate ritirare a fuoco medio fino ad ottenere uno sciroppo. Ripetete la stessa operazione per gli altri due infusi. A parte sciogliete 45 g di farina in 30 ml di olio di semi di girasole. Aggiungete 60 g di zucchero di canna e fate tostare a fuoco lento. Versate 300 ml di latte vegetale e mescolate con una frusta fino ad ottenere una crema liscia e densa. Togliete dal fuoco e dividete la crema in 3 parti. Aggiungete in ognuna un infuso. Colorate quella al sambuco con un pizzico di curcuma, quella alla rosa con un cucchiaino di acqua delle barbabietole ed infine immergete una foglia di cavolo cappuccio viola tagliata a pezzi grossi in quella alla lavanda. Una volta che la crema ha acquisito un colore violetto, togliete i pezzetti di cavolo. Lasciate raffreddare bene tutte le creme. Nel frattempo preparate i biscottini di accompagnamento. In una bowl unite 60 g di farina, 15 g di fecola, 15 g di amido di mais, 10 g di farina di ceci, 10 g di farina di mandorle, 40 g di zucchero di canna, un cucchiaino di cacao amaro in polvere, 20 g di olio di semi di girasole, 40 ml di latte vegetale, un pizzico di sale e il crema or tartaro. Mescolate bene il tutto e con una sacca a poche realizzate dei piccoli biscotti su una placca con carta forno. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per 15 minuti, quindi lasciate raffreddare. In ogni piatto alternate una noce di ogni crema ad un biscottino e decorate con petali eduli. Tutte le ricette di Gabriele Palloni sono naturalmente disponibili in podcast e anche con testo scritto e bellissime fotografie sul nostro sito restiamoanimali.it. Who sleep apart, lost to find the side spines, who sleeps out, and rose to pose now sure. Due atolli e 27 isole coralline nell'oceano indiano a metà strada fra Australia e Sri Lanka sono le isole Cocos. Forse, chissà, siamo lontani parenti. Qui ci vivono solo 500 persone. Le immaginiamo dei luoghi incantati, ma in realtà sono invase da rifiuti. Quasi 1 milione di scarpe, 370.000 spazzolini da denti, 414 milioni di oggetti di plastica per un totale di 238 tonnellate di rifiuti. Questo drammatico conteggio lo rileviamo da uno studio pubblicato su Nature. Purtroppo, i rifiuti presenti nel mare prima o poi trovano sempre un modo per attraccare e organizzarsi. Nel dicembre del 1971 esce Islands, il quarto album dei King Crimson. La parte finale del testo dice: perle ed angurie sono sparse sulla mia riva, come innamorati legate in cerchio. Terra, ruscelli ed alberi ritornano al mare. Onde lambiscono la mia isola, portando la sabbia lontano da me. Che differenza rispetto alle isole Cocos. Oggi vi propongo la versione di questo brano che ne ha fatta Alice nel 2003, insieme a Paolo Freso e Tim Bones. L'inquinamento dovuto alle plastiche è forse la peggiore, la più pericolosa fra le forme di distruzione della vita in questa fase storica. Isole di plastica negli oceani, reti, sacchetti, piatti, bicchieri ritrovati nei corpi di cetacei, tracce di plastica nel ventre di tutti o quasi tutti i pesci dei nostri mari. Una qualificata ricerca di qualche anno fa definì il mare Mediterraneo una zuppa di plastica. un'espressione forse poco accademica, ma assai efficace per descrivere lo stato dei mari, e soprattutto confermata da tutte le analisi successive. In questo quadro è stata approvata in via definitiva nei giorni scorsi la direttiva europea che finalmente vieta, o meglio vieterà dal 2021, l'uso di piatti, stoviglie, bicchieri, cannucce di plastica monouso. La direttiva fissa anche obiettivi sulla raccolta dei rifiuti di plastica e sul riciclaggio. Non è molto se pensiamo alla gravità della situazione attuale, ma è comunque qualcosa. Un ottimista direbbe che siamo di fronte a un primo passo e che ora si tratta di rilanciare per arrivare a una veloce eliminazione della plastica dal commercio. Non sappiamo se davvero finirà così. Intanto, nel Mediterraneo si muore di plastica. L'ultimo caso è stato segnalato da Greenpeace. Il capodoglio, trovato morto in spiaggia a Cefalù, in Sicilia, nei giorni scorsi, aveva lo stomaco pieno di plastica. È il quinto cetaceo spiaggiato in 5 mesi nei mari italiani e ogni volta dal ventre degli animali sono spuntati chili e chili di plastica, fra bicchieri, sacchetti, piatti, posate, tutti materiali abbandonati da qualche parte sulla terraferma. Green plastic watering can, or a fake Chinese rubber plant, and a fake plastic girl. But you bought from town full of rubber plants to get around itself. Where's the road? Where's the road? Da Bruxelles arriva una notizia interessante. Il progetto italiano Wolf Alps per la convivenza stabile fra il lupo e le attività economiche tradizionali è stato premiato come il migliore in Europa nella categoria progetti per la natura del programma LIFE. Wolf Alps ha coinvolto le regioni alpine di Francia, Italia e Slovenia ed è terminato nel maggio 2018, con risultati giudicati molto buoni per la riduzione dei conflitti fra lupo e comunità locali. Il progetto, secondo la giuria, ha contribuito ad aumentare il numero di branchi di lupi e la gamma delle specie. Il premio è stato consegnato nell'ambito della Green Week dell'Unione Europea, conclusa nei giorni scorsi dopo una settimana di incontri, conferenze ed eventi sulla applicazione concreta delle norme europee a tutela dell'ambiente. Wolf Alps è lo stesso progetto più volte contestato da allevatori e cacciatori e che la regione Veneto qualche tempo fa era stata sul punto di abbandonare. La ricerca di forme di convivenza in montagna fra le persone e i lupi continua ad essere la via maestra. Questo segnala l'Unione Europea, nonostante le sparate, letteralmente e metaforicamente, che si susseguono, probabilmente per fronteggiare con lo strumento della polemica e con la ricerca del capro espiatorio, una crisi delle attività casearie e di allevamento che ha tutt'altre origini, come il caso della Sardegna, dove i lupi non ci sono, sembra del resto indicare. Una buona notizia arriva dai Castelli Romani. Nell'ospedale dei Castelli, in comune di Ariccia, vicino a Roma, è stata allestita un'area interna alla struttura nella quale i pazienti ricoverati possono incontrare i propri animali domestici. L'area si chiama Quattro Zampe con Te e consente l'accesso di cani, gatti, conigli in visita a pazienti ricoverati. Il momento della malattia è una fase molto difficile da affrontare e avere al proprio fianco anche i nostri animali domestici può portare a ricadute molto positive nel processo di cura e riabilitazione dei pazienti di qualsiasi età. Così si è espresso l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato all'inaugurazione e noi concordiamo con lui. Tutti gli ospedali d'Italia dovrebbero fare altrettanto. Sometimes. The wind blows, and I flow. Un'altra buona notizia arriva dal mondo della moda, oggetto in passato di forti campagne animaliste contro l'uso delle pellicce, campagne che stanno avendo una certa efficacia, con l'abbandono delle pellicce da parte di molti marchi famosi. L'ultimo in ordine di tempo è il gruppo Prada, che ha deciso di passare al fur free, senza pellicce, a partire dalle collezioni donna della primavera-estate 2020. La scelta arriva dopo una specifica campagna, che ha avuto come hashtag Prada Fur Free, una campagna sostenuta dalla coalizione internazionale Fur Free Alliance. In Italia la trattativa, se vogliamo chiamarla così, con Prada, è stata condotta dall'associazione LAV, Lega Antivivisezione, parte della coalizione internazionale. Mariuccia Prada, a cose fatte, ha dichiarato che l'innovazione e la responsabilità sociale sono parte dei valori fondanti del gruppo Prada e la decisione di sottoscrivere la politica Fur Free, frutto di un dialogo costruttivo con Fur Free Alliance, in particolare con LAV e The Human Society of the United States, rappresenta un importante traguardo nell'ambito di questo nostro impegno. La ricerca e lo sviluppo di materiali alternativi, ha continuato Mariuccia Prada, consentirà all'azienda di esplorare nuove frontiere della creatività e di rispondere, allo stesso tempo, alla domanda di prodotti più responsabili. Sono parole significative se pensiamo che arrivano a conclusione di una specifica campagna animalista, senza la quale probabilmente Prada avrebbe quantomeno aspettato ancora prima di compiere questo passo. L'abbandono delle pellicce riguarda tutti i marchi del gruppo, quindi anche Miu Miu, Church's e Carshoe. LAV indica intanto il prossimo traguardo, una moda etica, non solo senza pellicce, ma completamente animal free. Questa puntata di Restiamo Animali è stata realizzata grazie al contributo dell'intera redazione: Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è per la prossima puntata fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.